Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, Pasqua si avvicina e allora parleremo di dolci pasquali. Ma la colomba viene identificata come il dolce pasquale, ma lo è veramente? Oppure ci sono tantissimi dolci sparsi per l'Italia che in tanti territori rappresentano appunto loro stessi il dolce pasquale? Bene, per esempio la pastiera, la crescia, la pagnotta pasquale. Bene, faremo un giro, discuteremo anche di questo. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Magari, cari radioascoltatori, se avete un dolce particolare, comunicate, chiamateci e ne parleremo molto, ma molto volentieri. Cominciamo questo giro d'Italia e andiamo a Urbino. Urbino è molto nota per la crescia pasquale. E abbiamo con noi Claudio Amati che è patron del ristorante L'Angolo Divino, appunto, di Urbino. E a lui vogliamo chiedere, Claudio Amati, ma com'è questa crescia pasquale? Buongiorno Paolini. Buongiorno. Sa che Urbino esiste questa tradizione che è centenaria, quella della crescia. La crescia viene mangiata in vari periodi dell'anno, c'è la crescia sfogliata, la crescia di Pasqua, che viene chiamata anche la crescia brusca, proprio per differenziarsi dalla crescia dolce, che era proprio il periodo che si mangiava per Pasqua. Infatti nel periodo di Pasqua la crescia, la brusca, aveva assunto lo stesso valore simbolico che oggi la colomba, veniva infatti fatta in casa dalle famiglie, soprattutto le nonne, le zie, perché ogni famiglia aveva un suo ingrediente nascosto e poi veniva portata a cuocere nel forno vicino, perché una volta, perlomeno da noi anche nell'entroterra, ogni via, ogni vicolo, ogni zona della città aveva il suo forno, i suoi alimentari. E questa crescia veniva mangiata alla mattina, uno spuntino con salumi, formaggi, le uova soda benedette e delle frittate fatte con levitalbe oppure con asparagi. In molte famiglie si conserva tuttora la tradizione di consumarla per colazione il giorno di Pasqua. Hai capito? Sì, certo, ma anche in altre aree d'Italia c'è il discorso dell'uovo sodo benedetto che rientra ad esempio nella pagnotta pasquale, quindi è una tradizione che è molto legata all'uovo, ovviamente siamo certo. Pasqua e non è un caso che siano nate le uova di cioccolata. Amati, ma è ancora molto sentita questa tradizione? Cioè sì, noi adesso tuttora le facciamo in continuazione, le cresce pasquale, la vecchia ricetta. Bene. Amati, io la ringrazio, saluto Urbino, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ora andiamo a Napoli, dove Napoli significa Pasqua, significa pastiera. Un dolce che io amo molto, bene, l'ho detto più volte e lo ridico anche oggi, e abbiamo scoperto fuori grotta, grazie a un lettore del Sole 24 Ore, un piccolo negozio di gastronomia, centenario però, il negozio Fusco, che fa veramente un'eccellente pastiera, ma non solo, fa anche il casatiello. Buongiorno signor Fusco. Buongiorno a lei, dottore. Allora, com'è questo casatiello? Perché è quello meno conosciuto. Ci racconti un po' il casatiello. Il casatiello veriva dal dialetto napoletano, da casa, appunto, che in dialetto è formaggio. Purtroppo sentiamo malissimo, Fusco, mi dispiace, la faccio richiamare telefonicamente, mi spiace tanto, ma non si sente, quindi magari richiamiamo Fusco. Bene, io dicevo che appunto l'Italia è ricca di tradizioni e come vedremo andando avanti veramente sono tantissime, però io voglio sapere, ma perché la colomba non ha successo del panettone? Lo chiederemo sicuramente a molte pasticcerie che producono sia l'uno che l'altra, forse perché Natale è molto più sentito come festa, forse perché siamo in pieno inverno e quindi si vogliono mangiare dei dolci. Bene, questo lo andremo a scoprire. Ricordo il numero verde 800 24 00 24 e ricordo anche SMS 349 238 6666. Ma come dicevo, in giro per l'Italia veramente sono tantissimi dolci. Andremo anche a scoprire cos'è la pizza cresciuta di Pasqua e poi ancora andremo a vedere così come molti cuochi, molti chef hanno elaborato sicuramente la pastiera. Sentiamo se abbiamo ripescato il nostro fusco, ancora non l'abbiamo ripescato. Dicevo molti, molti dolci in giro per l'Italia, ma sicuramente ci sono anche la colomba, ormai viene elaborata come il panettone con la birra, oppure viene fatta all'olio extravergine, come vedremo. E andremo anche in Puglia a scoprire cos'è la scarsella o scarcella, andremo a scoprire, perché forse al nord è poco conosciuta ma è molto diffusa nel territorio pugliese. Bene, dicevo che la colomba è sicuramente il simbolo della Pasqua per tante, tante maniere, quindi sicuramente il dolce della pace, chiamiamolo così. Abbiamo ripescato il nostro Gennaro Fusco. Gennaro, buongiorno. Allora, buongiorno di nuovo. Proviamo a raccontare il casatiello? Sì, le dicevo, il casatiello è un rustico tipico napoletano e deriva proprio da caso, che in dialetto vuol dire formaggio. In effetti nel casatiello noi troviamo appunto del formaggio, ma anche dei salumi, e quindi questo rustico ha una tradizione antica, forse anche prima del cristianesimo, ma poi con il cristianesimo diciamo che si rivitalizza e anche assume una forma appunto particolare, quella della ciambella, che ricorda un pochettino la corona di spine di Gesù Cristo, che infatti anche le uova a decorazione ricordano un po' le spine, oltre che essere simbolo di rinascita, come appunto l'uovo pasquale, sono anche simbolo delle spine del Cristo. Comunque vediamo invece come è fatto questo casatiello. Appunto, pasta di pane con dentro dei formaggi, del pecorino e poi dei salumi, in particolare dei ciccioli, che sono in pratica derivano in pratica dalla fusione del grasso di maiale. Certo, ciccioli. E quindi insieme a questa pasta di pane, ciccioli, salumi e formaggio abbiamo anche della sugna, che è appunto lo frutto in italiano. Dalla lavorazione in pratica di questo prodotto viene fuori questa ciambella che è molto prelibata, insomma, molto buona. Bene, allora ricordo Gennaro Fusco a Napoli, di questa vecchia gastronomia, che pastiera straordinaria, ma ho fatto raccontare il casatiello perché è il meno famoso. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Raccontateci magari, cari radioascoltatori, qualche dolce che abbiamo dimenticato, perché è importante, così lo porteremo così alla conoscenza anche degli altri radioascoltatori. Sentiamo Antonio da Prato. Buongiorno Antonio. Buongiorno Paolini, complimenti. Niente, io c'ho, mio padre è di origine lucana e tutti gli anni a me e a mio fratello ci porta questa... non è un dolce, è una pizza salata e si chiama incornata, non so per quale motivo, però gli ha dato questo nome e lui la fa con la pasta di pane, e uova sode, soprassata lucana, insomma, certo, o anche piccante oppure dolce, e formaggio caciocavallo. Bene, insomma, viene una... buonissima, io ho provato, a me non mi riesce. Si avvicina molto al casatiello napoletano di cui ci ha parlato Gennaro Fusco. Grazie Antonio, abbiamo sentito anche la voce della Lucania. Bene, ora io ho due produttori, due pasticceri, e con loro voglio appunto affrontare questo argomento. Ma come mai la colomba non ha il successo, o a me pare che non abbia il successo del panettone? Quali erano le ragioni? Il dolce è molto diverso e meno appetitoso, meno goloso, oppure si tratta proprio che Pasqua, diciamo, segna molto meno la corsa a questi consumi rispetto a Natale? Cominciamo da Andrea Filippi. Filippi è un pasticcere di Zanè, in provincia di Vicenza, noto per fare tutto con l'olio d'oliva, non con il burro, quindi anche la colomba. Buongiorno Filippi, lei cosa ne pensa? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ma io penso che la prima cosa che ha detto sia quella corretta, nel senso che la Pasqua è un po' meno sentita del Natale. Non è assolutamente vero, secondo me, che la colomba è meno buona o meno appetitosa del panettone, anzi forse io preferisco quasi di più la colomba, probabilmente più una minor propensione insomma alla spesa dei nostri cari consumatori. Ecco. Sentiamo... Rimanga con noi, sentiamo anche sì. Matteo Luci, che è della premiata pasticceria Cesarino di Borgo San Lorenzo. Buongiorno Matteo. Buongiorno Paolini, buongiorno. Allora, lei cosa ne pensa? Colomba e panettone, ha successo la colomba? Da noi ha comunque successo. Devo dire che ha ragione Filippi quando sostiene che comunque c'è una diversità. Anch'io, come lui, come gusto, preferisco personalmente la colomba. Devo dire che da noi, qui in centro Italia, noi siamo vicino a Firenze, la colomba segna un po' la Pasqua, segna un po' il momento in cui esce il sole, quindi da noi la gente ha voglia di uscire, ha voglia di andare, quindi per Pasqua si ritrovano meno di fronte a una tavola con i parenti, con gli amici, e quindi abbiamo più un prodotto da sport più che da convivialità. Bene, rimanga con noi anche lei. Sentiamo Antonella da Varese. Buongiorno Antonella. Buongiorno, senta, io chiamo da Varese ma sono toscana. Sì. E quindi volevo ricordare la schiacciata di Pasqua, che non ho sentito nominare. Benissimo, guardi, abbiamo... È molto buona, non so se lei la conosce. No, non la conosco però. Allora, è un dolce che potrebbe sembrare dal di fuori un panettone, quindi la stessa forma, non proprio identica, insomma, viene fatta anche in vari pesi, no? Però dentro ha solamente l'anice. Ho capito. Ed è molto dolce, buona, e a Pasqua penso che a Pisa, per esempio, compino più quella della colomba. Guardi, ho un SMS che mi dice: la sacripante, che è quasi scomparsa, è l'unico dolce solo ligure. Claudio, non so se sia così vero, magari invito qualche ligure a smentire o a confermare questo. Ricordo ancora il numero verde 800 24 00 24. Abbiamo molti SMS, allora ne leggo uno per far intervenire i nostri due pasticceri, perché ci sono così appunto delle riflessioni. Personalmente non apprezzo della colomba l'impasto eccessivamente dolce e la spessa glassa, adoro invece il panettone. Adelchi da Carpi, cosa ne pensa Filippi? Ma oddio, adesso l'impasto della colomba non è poi così diverso da quello del panettone, c'è un disciplinare del 2005 che ne caratterizza un attimo diciamo i punti salienti, dopo è chiaro che ciascun pasticcere può fare delle varianti. Se devo parlare delle colombe che produco io, insomma, ecco, nel mio laboratorio, non sono particolarmente dolci, anzi, probabilmente sono apprezzate perché hanno un gusto molto equilibrato. E il problema della glassa, questo è vero, cioè ci sono parecchi consumatori che non apprezzano la glassatura, insomma, sopra il prodotto, la crosta, per il fatto che comunque è composto da albume, zucchero e mandorle, e lo zucchero può risultare stucchevole. Ecco. Nel panettone classico questo problema, tra virgolette, chiamiamolo problema, non c'è. Ecco, volevo sentire invece da Matteo Luci, che tra l'altro vorrei ricordare che il suo pasticcere Mario Ragona è diventato campione italiano di pasticceria artistica, che mi risponda a questa SMS, che mi dicono dovrebbero farla più sottile la colomba. Lei cosa ne pensa, Matteo? Beh, noi siamo dei paladini della tradizione, per cui più sottile non piace, proprio come gusto e come forma. Siamo molto tradizionali, ci basiamo su cose semplici, e per quanto riguarda la glassatura noi tendiamo a farla più neutra, proprio per esaltare il sapore e la sofficità dell'impasto. Quindi più bassa ha un problema anche, Filippi anche credo lo possa confermare, nello sviluppo della colomba, che tende a perdere sofficità, che tende a perdere quella morbidezza caratteristica che secondo me rispetto al panettone ne esalta proprio il sapore. Ecco, un altro SMS mi dice: la festa cristiana più importante è la Pasqua, ma il panettone è meglio, più morbido e soffice, lo preferisco alla colomba. Per ora ho solamente fans del panettone, io prego qualche fans della colomba a intervenire. Nel frattempo abbiamo con noi Franco Lanza, della pasticceria al Duomo di Molfetta. Perché? Perché in Puglia c'è un dolce molto particolare che si chiama la scarcella di Pasqua. Buongiorno Lanza. Buongiorno. Ce la spiega? Eh sì, è un dolce tradizionale molto antico, si tratta di una pasta frolla all'olio extravergine d'oliva poi viene fatto con diverse, viene tagliato in diverse forme, a forma di cuore, a forma di colombe, a forma di conigli, di gallo, e poi vengono il tutto, questa pasta viene dorata con dell'uovo, con dei confettini colorati e poste poi delle uova sode al centro di questa, di queste forme. Questo uovo ha la particolarità di essere in qualche modo incatenato con due striscette di pasta. E la, ecco, il nome scarcella deriva proprio da questo fatto che bisogna scarcerare questo uovo, è il senso, perché scarcerare? Il senso, quello della Pasqua, è scarcerare Cristo dalla morte e portarlo alla resurrezione. Bene, grazie, grazie a Franco Lanza. Sentiamo un radioascoltatore, Raffaele dalla provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io le volevo parlare di un dolce tipico di Predappio, che si chiama bracciatello. Prego, prego. Dicevo che il bracciatello, come si dice in Romagna, è abbastanza diffuso, non solo a Predappio. Sì, no, però il bracciatello, il bracciatello in Romagna c'è in tanti modi. Si fa cotto in acqua, a vapore, lessato praticamente, oppure si fa molto pesante. Noi lo facciamo con lieto naturale e a base di burro. La tradizione lo voleva con lo strutto e lieto di birra, no? Sì, oggi è stato alleggerito? Sì, oggi c'è burro al posto dello strutto e c'è lieto naturale al posto di lieto di birra. Ed è un ciambellone che si conserva anche un mese, non come il panettone, perché la forma è diversa, è più basso, però simile. Ed è un dolce che dopo a Predappio è molto apprezzato, perché chi è andato via da Predappio, che è andato a abitare a Ravenna, Forlì o è fuori, a Pasqua ritornano tutti a comprarlo, perché è proprio un ricordo della tradizione. Poi la bracciatella romagnola è diversa, perché ci sono di tanti tipologie diverse di prodotto. Addirittura si fa anche con la ciambella romagnola, si fa una bracciatella, no? Poi si fa, c'è quella di Sarsina che è la pagnottina, no? Sì, quella ne parleremo, la pagnotta pasquale, sì, la parleremo certo. con l'uovo. Ma prego, il bracciatello, io anch'io sono andato via dalla Romagna, ma me lo ricordo molto, perché se ben ricordo c'è anche il rito che viene anche così servito in chiesa alla fine della messa con l'uovo sodo, quindi è un'altra tradizione. Grazie dalla Romagna, grazie da Predappio a Raffaele. Volevo chiedere a Matteo cosa si intende per pasticceria artistica, visto che ha vinto il campionato italiano il suo pasticcere. Dunque, pasticceria artistica è una scultura fatta con zucchero e pastigliaccio, e aerografata manualmente appunto da Mario. E, sono pezzi artistici che vengono realizzati trattando lo zucchero come se fosse vetro, quindi con tutte le varie tecniche, viene scaldato, viene tirato, viene soffiato, viene modellato, e quindi sono delle vere e proprie opere d'arte che vengono appunto realizzate come se fosse vetro, in un pezzo unico per l'esposizione. E la settimana scorsa Mario Ragona, che è il nostro pasticcere appunto, ha vinto il campionato nazionale a Carrara con un'opera dedicata alla donna, con una struttura che sviluppa 1,40 m di altezza, quindi con un'opera. Quanto tempo ci ha impiegato a farlo? Tra prove, controprove e poi la realizzazione della doppia scultura, perché poi viene montata direttamente in concorso, quindi rischia anche di spezzarsi delle parti, quindi viene fatta in doppia copia, ci ha messo 1,5 mesi. Grazie a Matteo. Volevo chiedere a Andrea Filippi, mi è arrivato un sms di un radioascoltatore, dice: è una colomba senza zucchero, c'è qualcuno che la fa? Lei ne sa qualcosa, Filippi? Penso ci sia qualche azienda che faccia una colomba come fanno anche il panettone senza. Bene, allora lanciamo un appello, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Chi conosce un produttore che fa la colomba senza zucchero, appunto per chi ha delle particolari problemi con lo zucchero, ovviamente la diabete ed altro, ci chiama, che noi daremo volentieri a questo radioascoltatore questa notizia. Sentiamo un radioascoltatore, Stefano da Milano, buongiorno Stefano. Andiamo. Buongiorno, prego. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Niente, io sono un produttore di colombe artigianali. Sì. Ecco, e niente, noi produciamo colombe da diversi anni, abbiamo affinato la nostra produzione e diciamo siamo arrivati a un buon livello, anche perché siamo stati, nominati sul Slow Food, sul buon paese del Slow Food. Ah, scusi Stefano, c'è stato un errore. Stefano e Stefano erano due, un radioascoltatore, lei è caduta alla linea del radioascoltatore. Abbiamo Stefano Contolini che insieme al padre, al panificio Contolini a Calmasino, comune di Bardolino. Allora le voglio chiedere questo, l'avevo chiamata per questo. È noto che davanti al suo forno, quando si comincia a produrre la colomba pasquale, ci sia la fila la mattina alle 7, è vero? Oddio, non esageriamo, alle 7, però diciamo che abbiamo una buona richiesta e il cliente viene, anzi fa la fila per aspettare, perché è un prodotto diciamo che è abbastanza riconosciuto e soprattutto apprezzato dai nostri tanti clienti che abbiamo sia nel circondario che da zone più distanti, ecco, che fanno molta strada per venire a prenderla. Senta Contolini, mi dica la verità, sì. Ma quando fate il panettone durante Natale c'è lo stesso interesse o c'è meno interesse? Ma guardi, quest'anno ho notato un interesse maggiore, anche perché noi a Natale proponiamo un bis di dolci, diciamo. Produciamo il panettone classico con l'uvetta e produciamo il noto Nadalin, che è una ricetta che ha fatto mio nonno, che abbiamo riscoperto trovando delle vecchie ricette che lui aveva messo via, perché una volta diciamo si sono buttati sul prodotto industriale e c'è stato negli ultimi anni un ritorno all'artigianale. Bene, io posso confermarlo perché sono stato in questo forno e ho comprato il Nadalin, quindi posso confermare quello che dice Stefano Contolini. Grazie Stefano, lo ripeto, panificio Contolini a Calmasino, comune di Bardolino. Bene, era caduto Stefano da Milano, pronto Stefano? Buongiorno Paolini. Mi dica. Ma io, siccome ho la fortuna di avere un papà napoletano e ho avuto una nonna che adesso non c'è più che preparava tutte le cose tipiche, ho mangiato tantissimo casatiello. E mi ricordo che oltre a mettere l'uovo sodo nell'impasto, venivano usate proprio le uova sode con il guscio come decorazione. Ed era quindi un prodotto molto, molto bello da vedere. Poi io riconosco che è un prodotto un po' pesante, ma mi ricordo che questo casatiello veniva messo sul tavolo in cucina e non faceva tempo neanche un giorno perché a piccoli pezzetti tutti i nipotini andavano a mangiarlo. Senta Stefano, veramente... ma lei dice ricordo, non lo mangia più il casatiello? Purtroppo devo dire che dopo che è mancata la nonna questa tradizione non è continuata, perché dopo alcune prove che ha fatto mia mamma è stata licenziata dal farlo. Ho capito, bene. E invece, se mi permette, sulla pastiera, sì. Volevo dire che è un dolce buonissimo a mio avviso, perché è un dolce non dolce, non è stucchevole e non sarebbe male, adesso che c'è questa moda dei brunch ad esempio, io che vivo a Milano, non sarebbe male anche come dolce da brunch perché accompagna bene tantissime cose. Io gliel'appoggio questa idea, grazie a Stefano. Sentiamo Gianluca da Treviso, buongiorno Gianluca. Sì, buongiorno Davide e grazie per l'ospitalità. Volevo ricordare anche la focaccia, che è un tipico dolce pasquale del trevigiano, che solitamente viene denominata fogassa. Sì, abbiamo avuto anche 2-3 sms su questo. Bene, quindi dolce tipico del trevigiano, abbiamo un altro dolce. Grazie Gianluca. Sentiamo Paolo da Vicenza, buongiorno Paolo. Buongiorno, io volevo segnalare la colomba fatta dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. Ho avuto modo di assaggiarla e mi ha veramente stupito. E volevo chiederle se anche lei ha avuto modo di conoscerla. Caro Paolo, io ne ho parlato molto spesso del panettone, soprattutto del dolce di questa carcere di Padova, dove c'è una grande pasticceria che fa dolce colomba ma fa anche dei biscotti buonissimi, quindi sicuramente ha fatto bene lei a ricordarlo. Grazie a Paolo da Vicenza. Volevo leggere un altro sms che ci segnalano un dolce tipico da Lecce. Si prepara la cuddura, è un impasto di pane delizioso in cui veniva intrappolato l'uovo sodo. Anche qui si parla di uovo carcerato. Bene, grazie. Sentiamo Anna Maria dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Paolini. Io l'ascolto con molto piacere ogni sabato. Siccome lei ha fatto l'appello, se si conosce qualche industria che produce panettoni o colombe senza zucchero, io posso dirle che nella mia zona, io telefono dalla provincia di Vicenza, a Motta di Costa Bissara c'è Lovison che produce colombe senza zucchero, ne abbiamo acquistate anche noi e sono ottimi, sono prodotti artigianali ottimi. Bene, la ringrazio Anna Maria di questo appello, ha risposto all'appello, speriamo che il nostro radioascoltatore abbia preso nota. Ebbene, ora andiamo in un'altra parte d'Italia, mentre invito comunque, se ci sono altre pasticcerie magari più vicine anche in altre parti d'Italia, 800 24 00 24 per poter appunto acquistare colombe particolari, quindi all'olio d'oliva, abbiamo detto prima, senza zucchero e magari anche con ingredienti particolari. Bene, andiamo nel Lazio. Andiamo nel Lazio da Mirella Cacciani. Mirella Cacciani crea i dolcetti di Mirella. I dolcetti di Mirella, si chiama il locale, che è del marito, e lei crea in particolare la pizza cresciuta di Pasqua. Ci racconta com'è, Mirella, questa pizza cresciuta? Intanto la ringrazio per darmi l'opportunità di far conoscere questa nostra pizza marinese. Sono quei sapori antichi, peccato che non possiate né assaggiarla né sentire il suo profumo, perché forse i giovani non la conoscono e i grandi hanno un po' dimenticato questi sapori antichi in un mondo che è genicamente modificato. Quindi è una pizza che si rifà a tante generazioni delle nostre nonne e che noi ancora conserviamo intatta e non ha nulla di moderno. Ancora grattugiamo il limone, le arance, ne spremiamo il succo ed è un lavoro lunghissimo di 2 giorni perché va un po' fatta crescere con i lieviti madre e quindi è veramente una cosa genuina che sa di antico. Mi piacerebbe farvi vedere la mia vetrina oggi, che è uno splendore, insieme ai fiori di questo periodo e a tutti gli altri dolci pasquali che facciamo. Bene, allora io guardi, formaggio ed altre cose. Ricordo, la pasticceria si chiama I Dolcetti di Mirella. Noi non siamo una pasticceria, ma siamo una salumeria dove io ho il mio angolo dei dolci, sì, dove faccio tutte queste cose e delle ricette delle nostre nonne. E quindi è veramente una nicchia. Bene, diciamo che è a Marino, sì, a Marino, via Roma, a Marino e in via Roma 78. Bene, e diciamo Vai. Anche che è incredibile, ma i Cacciani non hanno cellulare, quindi bisogna andare sul posto. Bene, grazie. Sì, perché è una zona dove non prende il cellulare, però lei ha il nostro numero. Grazie. Quindi se lo dovessero chiedere. Grazie. Grazie Mirella. Sentiamo Luigi dalla provincia di Ravenna. Buongiorno Luigi. Buongiorno Paolini. È un piacere parlare con lei. Mi dica, tra conterranei possiamo parlare anche in dialetto. Vada tranquillo Luigi. Ascolti, io ho chiamato perché ascolto sempre il vostro programma e ho sentito che stamattina parlate di colombe senza zucchero. Esattamente. Ecco, io sono un produttore artigianale da 15 anni di prodotti naturali, quindi facciamo prodotti senza zucchero, senza lievito, senza uova. E abbiamo due negozietti molto piccoli a Faenza e facciamo anche in grosso. Bene, visto che c'è stato un appello, faccio anche. Come si chiama il negozio a Faenza? Il Sapore Originale. Bene, allora il Sapore Originale da Luigi a Ravenna e dolci senza zucchero. Grazie Luigi. Ora andiamo a Napoli perché poi di pastiera ne abbiamo parlato veramente poco. E allora andiamo nella pasticceria, quella che viene sempre indicata come la pasticceria principe della pastiera. Andiamo dalla pasticceria Scaturchio in piazza San Domenico Maggiore a Napoli. Buongiorno a Giacomo Cautiello. No, Paolini, buongiorno. Senta, stiamo parlando della pasticceria Scaturchio e della principessa della tavola napoletana, la pastiera. Certo. Assolutamente, uno dei prodotti più buoni, che è nato nel periodo pasquale, ma ormai si vende in tutti ecco, i giorni. Ecco, questo che voglio chiederle. Giacomo, si dice che la pastiera il meglio lo dia in questo periodo perché c'è la connessione con il grano, con grano, il germe di grano. È il periodo di grano e della ricotta più buona questo periodo qua. Ecco, e nel resto del periodo è meno buona la pastiera? No, non è meno buona, però si sente, è diversa, anche perché forse c'è la primavera che comunque fa da contorno a tutto il dolce, che può sembrare pesante, ma assolutamente va mangiata anche a colazione o anche dopo pranzo, assolutamente non succede. Io sono 3 giorni che la mangio la pastiera Cautiello. Beh, è un prodotto che è tutto naturale, dal grano alla ricotta, dalle uova allo zucchero, quindi niente di che si possa aggiungere diversamente da quello che sono i prodotti. Ma naturali. Cos'è questa acqua d'arancio che va dentro? L'acqua d'arancio è un'essenza di fiori, è un bouquet di vari fiori. Noi usiamo un prodotto ancora più particolare che dà un profumo intenso, buonissimo, che sembra veramente di trovarsi un campo di fiori, proprio per quando è bello e per quando è dolce intorno a tutto, a tutto il prodotto. Bene, grazie a Giacomo Cautiello della pasticceria Scaturgio, che non ha bisogno così di aggiunte perché è notissima per quanto riguarda la pastiera, anche per altri dolci, insomma, in un posto bellissimo tra l'altro di Napoli. Sentiamo Luisa da Torino, buongiorno Luisa. Buongiorno signor Paolini, io non voglio parlare di un dolce, ma di un cibo pasquale di Messina che ho avuto il piacere di assaggiare a casa di un'amica messinese. Come si chiama questo piatto? Si chiama Susceddu, speciale di Messina. Ed è una cosa che un brodo con delle palline di carne gustose è ricoperto da uovo e formaggio, viene messo in forno e fa una crosta alta 15 centimetri che si deve rompere e si mangia con questo brodo, con queste palline di carne. C'è anche molta cannella. Bene, quindi un dolce, un piatto abbastanza, come posso dire, robusto. Proprio robusto, pieno di uovo, ovviamente, sì. E pasquale. Bene, grazie a Luisa da Torino. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Francesco da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Buongiorno Paolini, buongiorno. Senta, a proposito di pastiera, volevo sapere se con la ricotta e il grano eccetera ci va anche il miele. No, a quanto mi risulta no, ma abbiamo, guardi, con noi ora anche, lo faccio confermare da Paolo Barrale, sì. Che è lo chef del ristorante Marennà in provincia d'Avellino, sì. All'interno della cantina Feudi di San Gregorio, che propone un dolce che si chiama la pastiera ieri oggi. Buongiorno Paolo. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti. Ma cos'è la pastiera di ieri, com'è? La pastiera di ieri è quella cosa un po' utopica, perché ogni famiglia dice che la migliore è quella che fa la mamma o la nonna, quindi sembra un po' difficile, ognuno c'era una micro ricetta che differisce poi in piccole cose, ma veramente piccole, e quello che posso dire è che è una qualcosa di consistente e poi di un profumo celestiale. Si dice che la pastiera per essere mangiata deve essere almeno consumata 2 o 3 giorni dopo essere stata infornata, quindi dopo che ha riposato. E quella di oggi invece? Quella di oggi, diciamo che espressa, per così dire, diciamo che la consideriamo, difatti non vogliamo assolutamente togliere dall'idea dei campani che la pastiera non deve essere servita a Pasqua. Al ristorante serviamo la pastiera di ieri e di oggi. Quella di oggi ovviamente è un'interpretazione della pastiera, è una zuppetta di arance fresche che viene servita con una mousse di ricotta, una frolla leggerissima e sottile che fa ricordare nella visione proprio la grigliata classica della pastiera. E poi sopra ancora un gelato profumato alla crema, e gli odori e le spezie vengono messe sia sotto forma di legnetti, nel caso della cannella, olio essenziale di fiori d'arancio e millefiori, proprio alla fine prima che esca. Deve arrivare proprio la zaffata, il classico profumo della pasta. Bene, rimani con noi, sentiamo Maria da Roma, buongiorno Maria. Buongiorno signor Paolini, complimenti per la trasmissione. Lei sarà già stato informato della mia richiesta. Io chiedevo se ancora oggi in Toscana, più precisamente in provincia di Arezzo, dove io ho vissuto nella mia gioventù per più di 20 anni, per Pasqua, per la colazione di Pasqua, oltre le solite uova e salame tradizionali, si faceva una specie di ciambella un po' a tortiglione con tutti i confettini sopra, chiamata ciaramicola, che era buonissima. Volevo sapere se ancora la si fa. Bene, guardi, abbiamo casualmente un radioascoltatore di Arezzo che si chiama Raffaele, il quale era in attesa, chiediamo se lui la conosce. Buongiorno Raffaele. Buongiorno, sì, la conosco, ma il dolce più eseguito ad Arezzo è una specie di dolce schiacciato che si chiama panina gialla, è fatta con la farina, senza uovo, il giallo gli viene dato dallo zafferano, ecco, con uvetta, pinoli o noci anche. Ecco Raffaele, questo è il dolce che si usa la domenica mattina, cioè il giorno di Pasqua, per fare colazione con il salame locale e il prosciutto locale. Senta Raffaele, ma ha sentito questo dolce che chiedeva la signora, si trova ancora? Si trova ancora, ma non si chiama sempre più o meno come la panina, insomma. Ho capito. È quella fatta appunto, come dice, a torciglione. Bene, grazie Raffaele, ma abbiamo anche un SMS sempre dalla Toscana che ci dice che in Toscana si usa il pan di ramerino. Quindi è abbastanza noto anche il pan di ramerino, però il pan di ramerino si usa anche per, diciamo, in altri periodi dell'anno. Comunque anche il pan di ramerino in Toscana è molto famoso. Sentiamo Rosario da Napoli. Buongiorno radioascoltatore. Buongiorno Paolini. Mi dica. Allora no, per comunicare a tutti gli amici radioascoltatori che noi da Napoli, insieme all'Associazione Pasticceri e alla Confcommercio, abbiamo avviato l'istruttoria per il riconoscimento della pastiera napoletana IGP, Indicazione Geografica Protetta. Io sarò uno dei fans di questa presentazione, guardi. Sì, è importante perché abbiamo tutelato la ricetta, quella della pastiera tradizionale, nonostante, ecco, tutte queste belle notizie che sto sentendo, credo che la pastiera tradizionale sia quella che adesso staremo per riconoscere con disciplinari di produzione e che vede metodiche di preparazione e determinati prodotti. Ecco, però io le chiedo se vede anche periodi dell'anno in cui produrla. La pastiera napoletana viene sempre prodotta nel periodo pre-pasquale, però qui la tradizione prevede anche Natale, una presenza di pastiera. Va bene, allora noi siamo tifosi di questa presentazione della pastiera, bene, brinderemo quando arriverà con una bella pastiera. Sentiamo Marcello dalla provincia di Siena, buongiorno Marcello. Buongiorno direttore, complimenti per la trasmissione. Io volevo segnalare il dolce tradizionale del centro Italia e in particolare, io sono nato nella provincia di Macerata, in particolare da Matelica, la pizza pasquale cosiddetta, che sostanzialmente è nell'accezione sia dolce che di formaggio. Ovviamente in questo periodo il formaggio annuncia i suoi sapori migliori, per cui è tutto un sapore molto molto tradizionale e interessante. La segnalo perché credo che in un qualche modo sia un pochettino sparita. Parte. Bene, allora la rilanciamo, via. La rilanciamo anche a Pisa, rilanciamo dalla provincia di Pisa la Sportina, che ci segnala un altro radioascoltatore. Bene, strano che molti radioascoltatori di aree diverse segnalano prodotti di altre aree. Molto bello questo, vuol dire significativo. Ma ora abbiamo con noi un pasticcere, un noto pasticcere pugliese della pregiata forneria Lenti di Grottaglie. Buongiorno Emanuele Lenti. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lenti, lei produce panettone e colomba. Ha successo la colomba? Sì, diciamo che in questi ultimi anni sta un po' crescendo il consumo delle colombe, sì. Ecco, ma nella sua area, in Puglia, c'è qualche altro dolce che lei produce che è tipico della Pasqua? Sì, assolutamente sì. Abbiamo, come è stato detto prima, la famosa scarcella in due versioni, sia dolce che salata. E poi un altro dolce in assoluto pasquale è, detto in dialetto nostro, il tarallo scileppato. Cioè? Dunque è un impasto di olio, uova e zucchero, viene fatto a ciambelline, viene scaldato, le ciambelline vengono scaldate nell'acqua, poi vengono incise, tutto il perimetro della ciambella viene incisa, viene ricotta nel forno e in pratica questa incisione apre la ciambella, diventa una forma più o meno come fosse una rosa aperta. Ho capito. Alla fine viene ricoperta di uno zucchero fondente oppure una sorta, detto, ripeto in dialetto, scileppo, è sempre la stessa forma di zucchero fondente preparato in casa. Beh, e questo è un dolce tipico nostro. Bene, grazie Emanuele Lenti. Abbiamo una proposta da Isola della Scala, il colombettone, panettone fatto a colomba con la glassa, bene, quindi andiamo anche su cose abbastanza così molto molto molto particolari. Bene, Paolo Barrale, un'ultima battuta, ma questa pastiera di ieri e di oggi, ma ha più successo quella di ieri o quella di oggi a tavola? Vengono consumate simultaneamente, sono due dolci, due concetti totalmente differenti, è semplicemente un divertimento che abbiamo dato al cliente a tavola, ai nostri amici che ci vengono a trovare. Bene. Io preferisco sempre la tradizione, eppure la faccio in tutte le maniere. Bene. Viva la tradizione. Grazie, grazie Paolo. Ora sentiamo Massimo dalla provincia di Roma. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Volevo segnalare un dolce tipico di Bordino, la pizza Giulia, che è una pizza cresciuta, fatta in modo particolare, con una lievitazione particolare, che si mangia la domenica di Pasqua insieme alla corallina, che è un salame. Un salame tipico, sempre qui laziale. Senta, ma perché si chiama Giulia? Perché qualcosa, c'è una pasticceria che si chiama Giulia, oppure c'è il nome del tradizionale? No, perché una vecchia signora di Bordina inventò questa lievitazione e a Tivoli è nota come pizza Giulia. Bene, la ringrazio Massimo. Abbiamo finito, abbiamo terminato, abbiamo chiuso questo viaggio in giro per l'Italia. Abbiamo scoperto tantissimi dolci pasquali, magari sconosciuti a me, ma penso anche a molti nostri radioascoltatori. Ebbene, io vi do appuntamento domani alle 12.15 con il 12.15, in cui ci collegheremo con Stefano Gallerini, e poi ancora ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05 con la pillola del gastronauta. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, magari mangiando una pastiera o una colomba o una pizza cresciuta, come si chiama, o la scarsella, o tanti altri dolci pasquali. Buon weekend da Davide Paolini.